Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Cacciavite, robot e tablet. Questa sera parliamo di politica industriale, di come far ripartire le imprese. Questo è il titolo di un libro edito dal Mulino e scritto da Dario Di Vico e Gianfranco Viesti. Buonasera Dario Di Vico. Buonasera. Dario Di Vico ha inviato il Corriere della Sera e ha scritto anche altri libri, per il Corriere della Sera segue soprattutto la politica industriale, l'economia, ha scritto tra l'altro un libro che si intitola Piccoli, la pancia del paese, alcuni anni fa, con una particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese. E buonasera a Gianfranco Viesti. Buonasera. Gianfranco Viesti insegna economia internazionale all'Università di Bari, ha scritto anche lui alcuni libri, soprattutto dedicati al mezzogiorno, il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce, falso, è un titolo della collana di La Terza. Allora, un libro sulla politica industriale, un libro scritto non tanto a quattro mani ma a due mani per volta, perché sono due contributi che mettono insieme due punti di vista diversi, due punti di vista che più che contrapporsi si integrano anche se sono diversi. Allora, inizierei da Gianfranco Viesti. Politica industriale, il quadrato magico. Qual è in sintesi la sua tesi? Ma la mia tesi è che siamo messi male perché ormai già da prima della grande crisi la nostra industria presenta difficoltà. Non perché gli imprenditori siano diventati stupidi, non tutte le imprese, ce ne sono molte che vanno male, ma il totale si riduce, il totale della nostra produzione industriale. Questa non è una buona notizia perché l'industria è la spina dorsale della nostra economia, se perdiamo l'industria andiamo molto indietro e quindi bisogna fare qualcosa per aiutare l'industria a rilanciarsi, così come stanno facendo gli altri paesi europei. Il quadrato magico sono le caratteristiche delle imprese che più sono importanti in questo momento, più forza di capitale, più capitalizzazione, migliori risorse umane nelle imprese per fare i due comportamenti magici, appunto, innovare di più e crescere di più all'estero. E in questo, professor Viesti, ci vuole anche un ruolo del pubblico, un ruolo, qualcuno dice, per fare qualcosa come ha fatto l'IRI ai tempi della grande crisi degli anni 30 e qualcuno dice ancora la Cassa Depositi e Prestiti. Come giudica il possibile intervento pubblico nella politica industriale? Io lo giudico molto importante, in primo luogo perché guardo quello che stanno facendo gli altri partner europei, gli Stati Uniti, i paesi emergenti. In secondo luogo perché dobbiamo partire con uno scetticismo preconcetto, non perché siamo in Italia non possiamo fare alcune cose. Certamente non significa voltarsi indietro e quindi andare a ricette superate dai tempi. Una politica industriale molto leggera che accompagni le imprese, che diffonda i comportamenti migliori, che però aiuti questo processo di adattamento ai cambiamenti internazionali. Ecco, il nostro sistema è stato un po' lento ad adattarsi perché è fatto di troppe piccole imprese, o meglio di imprese che non crescono, che innovano poco. Un po' di misure di politiche pubbliche, secondo me, ben centrate, secondo me possono aiutare questi processi. Ecco, in questo penso che anche Dario Di Vico sia d'accordo, voi vi dite appunto d'accordo sull'analisi, ma divisi poi sulle misure concrete da attuare. Dario Di Vico intitola il suo contributo politica industriale, sì, ma on the road. Qual è la caratteristica di questa politica industriale? Dario Di Vico. Beh, il ragionamento fa premio su un coinvolgimento di diversi soggetti prima che dello Stato, e diversi soggetti sono le multinazionali estere, le banche, il sistema del retail, nel senso che mi sono fatto l'idea che noi ad esempio sulle multinazionali ci limitiamo ad attrarle ma non accompagniamo le scelte che di volta in volta fanno. E invece le multinazionali possono convogliare sul nostro paese risorse che altrimenti non riusciremo a rastrellare. Per la questione delle banche è evidente che non è solo un problema di credit crunch, ma va individuato un nuovo meccanismo di scambio che permetta alle banche di diventare partner strategici delle imprese. C'è una riflessione di Grospietro, che io riporto nel libro, che apre la strada a questo indirizzo. Purtroppo se ne parla pochissimo e cito anche un documento molto interessante della Confindustria, che ha il solo difetto di essere rimasto un po' negli archivi e non terreno di riflessione appunto sul ruolo che le banche possono avere per una politica industriale di mercato. Ecco, una politica industriale che deve essere fatta anche di riforme concrete, per esempio per aiutare i piccoli a crescere, a fondersi, a fare delle strategie che possono fare crescere dimensionalmente le imprese italiane. E l'ultimo paragrafo appunto della tua introduzione, del tuo saggio, è dedicato al lavoro, anche una riforma del lavoro che guardi alle possibilità delle imprese di crescere. In questa prospettiva tante riforme che però devono avere un obiettivo di politica industriale che spesso non hanno. Dario Di Vico. No, non lo hanno in maniera diretta. È chiaro che ci sono alcune condizioni di contorno, la burocrazia, l'abbassamento delle tasse, ovviamente sono condizioni di contorno importanti. Poi non ci sono invece interventi diretti. Bisogna vedere per esempio però l'azione dei due fondi. Io sono più scettico sulla cassa depositi e prestiti in quanto tale, invece sono molto favorevole all'azione e alle esperienze che vanno facendo il Fondo Italiano di Investimento e il Fondo Strategico Italiano. Quelle possono essere due leve importanti per accelerare processi che altrimenti sarebbero molto più lunghi. Ecco, in questa prospettiva non posso non sottolineare come appunto l'articolo di Dario Di Vico si concluda un po' con una stilettata al sindacato. I massimi dirigenti CGIL e CISL UIL sostengono che dopo la crisi niente sarà come prima e tutto deve cambiare, con un'unica eccezione: loro stessi. Dario Di Vico, il sindacato è una forza di conservazione a questo punto. Il sindacato di Roma è senz'altro una forza di conservazione, è un sindacato che insegue un proprio riconoscimento, è, come dire, angosciato dalla fine della concertazione, mentre il sindacato in fabbrica è molto più legato alle singole vicende, ha una duttilità maggiore e in qualche caso, anzi in più di qualche caso, aiuta la competitività delle imprese e entra in un nuovo sistema di relazioni industriali più moderno. Il sindacato di Roma no. Ecco, invece Gianfranco Viesti conclude il suo saggio dicendo che l'Italia deve diventare un paese più serio, vale la pena di provarci, un paese più serio con una continua attenzione dei vertici politici e quindi con un lavorio di anni, rafforzando le istituzioni, dialogando con le imprese, disegnando e correggendo gli strumenti, valutando i risultati. Questi vertici politici, Gianfranco Viesti, sono attenti alle esigenze e alla realtà delle imprese? Secondo me no, in questo momento c'è una grande illusione che basti ridurre un po' il costo del lavoro che l'industria italiana riparte. Io non credo che sia così. L'industria italiana ha un quarto delle imprese che vanno già bene e non hanno bisogno di niente. I tre quarti che stentano molto invece sono in difficoltà che non si superano sicuramente con dei prezzi un po' più bassi. Tutti abbiamo di fronte un dramma della domanda interna, ma anche se ripartisse per miracolo, arrivato da Berlino, la nostra domanda interna, la domanda interna europea, sappiamo da quello che è successo prima del 2008 che un pezzo dell'apparato industriale italiano ha bisogno di una forte manutenzione. Allora, non sta allo Stato dire quello che devono fare, non sta allo Stato fare piani, però secondo me sta alle politiche pubbliche aiutare moltissimo questi processi, facendo entrare per esempio molto di più giovani laureati delle imprese, favorendo tutti i percorsi di innovazione. Lei diceva una cosa giustissima prima, ci vuole un obiettivo. Allora il mio obiettivo, l'obiettivo che propongo, è quello di aiutare questi processi di trasformazione delle imprese. Gli strumenti possono essere anche un bricolage di misure diverse, ma deve essere chiaro l'obiettivo e deve essere una priorità politica. In questo momento credo che non ci sia, ma io credo che questo sia un grosso rischio, perché potremmo trovarci tra 5 anni con un'industria ancora più debole. Ecco, un'industria debole che è debole e ha vissuto diciamo con molta debolezza gli anni della crisi. Ormai ci troviamo con un 20% di produzione industriale in meno rispetto agli anni del 2006-2007, prima che iniziasse la crisi. In questo senso certamente si continua a parlare di piccoli, e qui ritorno ancora a chiedere a Dario Di Vico com'è la pancia del paese a 4 anni del tuo libro del 2010, a 4 anni dalla prima indagine che hai fatto sui piccoli. Dario Di Vico. Beh, c'è una cosa che non avevamo però stimato che potesse avvenire, che è avvenuta. la straordinaria tenuta e avanzamento dell'export. Per carità, ho presente tutte le questioni che controbilanciano questo elemento positivo e ce le raccontiamo tutti i giorni. È interessante però capire come l'export ha tenuto a livelli che non ci saremmo aspettati. Ad esempio, sottolineo lo straordinario esploit del settore farmaceutico in Italia, che se solo ce l'avessero chiesto 6 anni fa, nessuno di noi avrebbe pronosticato. Quindi è evidente che ci sono elementi, io sottolineo gli elementi positivi perché magari sono meno evidenziati nelle cronache di tutti i giorni. Per quanto riguarda i piccoli, in un capitolo racconto un po' le esperienze più significative e più innovative di Stretti, che hanno saputo reggere anche in questa circostanza. Ecco, forse possiamo dire che i giornalisti avrebbero qualche compito di dare maggior risalto alle buone notizie. Si parla delle aziende che vanno bene quando anche hanno qualche piccolo problema, come Luxottica, un'azienda che va benissimo, ha avuto qualche scossone interno, se ne è parlato molto, ma quando andava molto bene se ne parlava un po' meno. Ma io vorrei concludere con Gianfranco Viesti, guardando un po' in avanti, certamente diciamo l'ottimismo della volontà e il pessimismo dell'intelligenza, guardando al sistema politico, però comunque ci sono dei punti di forza ancora molto significativi nella realtà industriale italiana. Gianfranco Viesti. Assolutamente, noi siamo un grande paese industriale, dobbiamo continuare ad esserlo, abbiamo tantissimi esempi di imprese che ce la stanno facendo benissimo anche in questa situazione catastrofica, dobbiamo essere un po' più pragmatici nella discussione, e un po' meno tweet e un po' più di discussione tecnica sugli strumenti, perché si può fare molto come fa la Germania per aiutare questi cambiamenti delle imprese. Non dobbiamo essere ideologici, perché il rischio poi che il pezzo che non va bene non tenga, secondo me c'è. Discutiamone, il tentativo che abbiamo cercato di fare con Dario con questo libro è appunto, confrontando posizioni diverse, di rilanciare un po' la discussione. Nessuno ha la ricetta in tasca, siamo tutti e due un po' preoccupati di come vanno le cose, proviamo a parlarne. Male non fa, e sicuramente se possiamo definire qualche strumento che possa aiutare i piccoli a crescere o a far arrivare più multinazionali o a far nascere nuove imprese un po' più avanzate tecnologicamente, qualche risultato l'avremo ottenuto. Ecco, grazie Gianfranco Viesti, indubbiamente un libro che aiuta a riflettere. È importante sapere le cose, come diceva Inaudi, conoscere per deliberare, affrontare questi temi, vedere che la realtà italiana non è una realtà su cui solo piangere, ma su cui si può costruire, si può cominciare a costruire anche qualcosa di nuovo sulla base di una grande tradizione, e questo è in fondo anche un po' il senso di un libro che guarda dall'innovazione, e infatti si intitola Cacciavite, robot e tablet, cioè il robot, ci sono i tablet, ma c'è anche il cacciavite, c'è anche la voglia di fare, c'è anche la ripresa di una manifattura che è sempre stata importante per l'Italia, che può continuare ad essere importante in una realtà che ha grandi cambiamenti. Io ringrazio Dario Di Vico e Gianfranco Viesti di essere stati con noi questa sera, ricordo sono gli autori del libro Cacciavite, robot e tablet, come far ripartire le imprese, edito dal Mulino, sono 144 pagine per 12 euro. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma va in onda il sabato sera.